Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani, benvenuti a Salva Danaio. Questa mattina parliamo di assicurazioni, un mercato molto particolare che in Italia soprattutto presenta alcune peculiarità, purtroppo non sempre virtuose. Pensiamo alla situazione dell'RC Auto, di cui abbiamo tantissime volte parlato da questo microfono, un mercato con grosse difficoltà in questo momento perché oggetto di continui rincari dei prezzi e delle tariffe, una situazione che fa imbufalire soprattutto tutti quei automobilisti virtuosi che naturalmente, pur non avendo mai avuto incidenti, non avendone mai provocati, continuano appunto a ritrovare in condizioni di aumenti appunto tariffari costanti. Il cliente dunque del settore assicurativo, per informarsi sulle possibili polizze da accendere, oggi ha a disposizione molti strumenti. Internet, lo sapete, ci fornisce tantissimi siti, tanti comparatori pensati proprio a questo scopo. Resta però ancora fondamentale per gli italiani il rapporto di fiducia con l'intermediario, con l'agente o il broker assicurativo. E proprio questa categoria è stata decisamente sotto i riflettori negli ultimi tempi perché interessata direttamente dalle novità del decreto liberalizzazione dello scorso gennaio, proprio in materia di informazione e confronto fra le diverse polizze. C'è un nuovo obbligo contemplato da queste misure, il famigerato articolo 34 del decreto Monti sulle liberalizzazioni, un nuovo obbligo per gli assicuratori che è quello di presentare 3 preventivi di diverse compagnie, una norma che sta provocando però non poche discussioni anche all'interno della stessa categoria degli assicuratori, appunto, che hanno delle posizioni su certi punti anche differenti. Noi ne parliamo questa mattina, cerchiamo appunto di intanto ascoltare le ragioni degli agenti, ma parleremo anche di che cosa deve pretendere il consumatore che si trova a relazionarsi con un agente delle assicurazioni e quali sono le prospettive di miglioramento in un mercato ancora caratterizzato da grosse inefficienze, tempi lunghi per le liquidazioni, ma anche tante frodi e irregolarità che poi chiaramente incidono complessivamente su tutto il mercato, sull'attività delle compagnie che a loro volta sono obbligate ad aumentare le tariffe. Allora, come possono cambiare le cose? Ma io vorrei anche che i nostri ascoltatori ci raccontassero se accoglierebbero e in che modo con questa novità appunto della triplo preventivo, cioè se il vostro assicuratore quando dovete rinegoziare la vostra polizza vi presentasse 3 preventivi, chiaramente dandovi la possibilità di scelta, per voi sarebbe una, come dire, novità che vi genererebbe confusione oppure la accogliereste con favore, con piacere, appunto con positività? Raccontatecelo all'800 24 0024 oppure scriveteci al 349 238 6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it oppure potete come sempre, come state facendo sempre più numerosi, animare anche il dibattito sul nostro profilo Facebook che è all'indirizzo salvadanaio-radio24. Chi sono i nostri interlocutori di questa mattina? Massimo Congiu, presidente di UNAPAS, Unione Nazionale di Agenti Professionisti di Assicurazioni. Presidente Congiu, buongiorno. Buongiorno dottoressa Rosciani e un buongiorno anche ai suoi ascoltatori. E buongiorno anche a Claudio De Mozzi, presidente dello SNA, Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione. Presidente De Mozzi, buongiorno anche a lei. Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Tutti presidenti questa mattina. Buona giornata anche a voi, grazie della vostra collaborazione. Io ho già raccontato ai nostri ascoltatori, anche se lo sanno benissimo, come possono vivacizzare la nostra trasmissione. Prima andiamo a dare un'occhiata ai temi di questa mattina per quello che riguarda la borsa. La borsa è negativa. Abbiamo attribuito negli ultimi giorni la responsabilità degli ultimi cali alla rinnovata preoccupazione per le condizioni della Spagna. Ho letto invece poco fa da un report di un operatore che a disturbare il mercato stamattina è stato in particolar modo un nuovo report, nuovamente appunto, di un'agenzia di rating Standard & Poor's, secondo la quale la Grecia potrebbe necessitare di un'altra ristrutturazione del debito dopo quella che abbiamo chiuso appena poche settimane fa. E poi ci sono state anche delle indicazioni dell'OCSE sulle condizioni economiche dell'Eurozona. Si guarda con favore appunto alle prospettive, ma la ripresa dell'economia europea rimane ancora molto fragile, dice l'OCSE in un nel nuovo rapporto divulgato stamattina a Parigi, l'OCSE ha anche rassicurato: la Spagna non necessita di aiuti, ma in ogni caso questo focolaio si è acceso questa settimana appunto e ha mandato giù i listini, così come sta succedendo questa mattina. Milano perde l'1,17% a causa dei titoli bancari che scendono, trascinati a ribasso da Montepaschi, che adesso fa meno 7%. Il gruppo ha comunicato i suoi risultati questa mattina. Come sapete, c'è anche l'uscita dall'azionariato appunto della Fondazione Montepaschi, che ha messo sul mercato un bel pacchetto della sua quota. Non si sa ancora come questa quota appunto verrà ceduta sul mercato, le modalità, gli offerenti che sono sul campo appunto sono diversi, ma in ogni caso i conti questa mattina sono penalizzati dal mercato, perché il gruppo ha dovuto effettuare nel 2011 oltre 4 miliardi e mezzo di svalutazioni e quindi ha chiuso l'anno con una perdita di 4,69 miliardi. E soprattutto c'è anche questo fatto che forse un pochino disturba il mercato: il presidente uscente del Monte dei Paschi, Giuseppe Musseri, stamattina non è neanche stato presente alla presentazione dei conti alla comunità finanziaria. E comunque insomma il mercato guarda un po' a tutto. Anche Salvatore Ferragamo scende di 3,5 punti. Banco Popolare meno 2,36, meno 2 per Mediolanum, per Generali, Unicredit che scivola sotto i 4 euro. La Popolare di Milano meno 1,91 continua a scendere dalla pubblicazione dei conti. In positivo abbiamo solo Finmeccanica che guadagna 4,5 punti per lo stesso motivo degli ultimi giorni. C'è appunto, come sapete, l'attesa di dismissioni per circa 1 miliardo di euro quest'anno. In ballo soprattutto c'è la trattativa per portare i giapponesi di Hitachi al 50% di Ansaldo Breda e al 29% di Ansaldo STS. Lo spread è intorno ai 330 punti base, continua a risalire. Oggi aste del tesoro che sono riuscite, i BTP decennali hanno riportato i rendimenti sui livelli di agosto alle 5,24%. Per il mercato è tutto, andiamo al tema di oggi: assicurazioni e triplo preventivo. Non si può dire che il decreto liberalizzazioni del governo Monti, dall'entrata in vigore dello scorso 24 gennaio, non abbia fatto parlare di sé. E tra gli argomenti più discussi, uno in particolare sembra particolarmente controverso, al punto da dividere i rappresentanti della stessa categoria coinvolta. Si tratta dell'obbligo per gli intermediari assicurativi di presentare al cliente tre preventivi di imprese diverse. A suscitare molti dubbi è in particolare l'efficacia della nuova norma nell'accrescere la concorrenza nel mercato per una categoria che vede solo un 30% di agenti plurimandatari, che rappresentano quindi più imprese assicurative e che favorirebbero quindi un effettivo confronto concorrenziale. A non convincere molti addetti ai lavori è la prospettiva che vede un monomandatario, che rappresenta quindi un'unica società, costretto a presentare anche altre offerte, senza essere realmente interessato a venderle. Le reazioni sono molteplici e diverse anche le controproposte: la possibilità immediata di plurimandato per gli agenti in esclusiva, la collaborazione tra gli agenti di diverse imprese assicuratrici, il vincolo della triplice informazione all'eventuale richiesta del cliente. Per alcuni il giudizio critico sulle novità del decreto è più netto, mentre altri vedono comunque nelle liberalizzazioni l'opportunità di cambiare alcune dinamiche del mercato assicurativo, come l'inefficienza e l'alto numero di frodi e situazioni irregolari. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, oppure scriveteci al 349-238-6666 degli sms o delle mail più lunghe se volete articolare un po' meglio i vostri ragionamenti all'indirizzo salvadanaio@radio24.it. La prima mail di questa mattina arriva da una gentile signora, Elisa, che ci scrive: io sarei ben contenta se mi facessero scegliere, almeno c'è chiarezza e possibilità di scelta, grazie e complimenti. È chiaro che dal punto di vista del consumatore quello dove dovremmo andare è il migliore dei mondi possibili, però per gli agenti non è così semplice dal punto di vista appunto, come dire, finanziario, commerciale, non so come dire. Tra le due figure che abbiamo chiamato questa mattina, Massimo Conge e Claudio De Mozzi, forse sul famoso articolo 34 delle misure sulle liberalizzazioni è De Mozzi. Anche Conge all'inizio era molto arrabbiato, poi abbiamo seguito un po' il percorso, ha un pochino edulcorato le sue posizioni, al punto che l'associazione ha siglato ieri un protocollo di intesa con Adiconsum, una grande organizzazione dei consumatori. Poi ce ne faremo raccontare le ragioni. Cominciamo con il sindacato degli agenti di assicurazione, De Mozzi. Allora, che cosa vi ha fatto arrabbiare di più rispetto a questo famigerato articolo 34? Allora, innanzitutto ci ha fatto arrabbiare che l'articolo 24 in versione finale non è coerente con le intenzioni dichiarate del governo, non è coerente con la linea di liberalizzazione che il governo ha detto di voler mettere in atto, non è coerente con ciò che i consumatori, il mercato e l'Europa sta chiedendo, e cioè con una reale apertura in senso di liberalizzazione della distribuzione assicurativa italiana. Noi ci siamo arrabbiati fino ad autodenunciarci per il mancato adempimento agli obblighi di questo articolo che, così come è formulato, è inutile ed inapplicabile. Sì, poi racconteremo agli ascoltatori come si è svolta questa denuncia. Ma non perché siamo contrari, ma perché liberalizza troppo poco o per nulla un settore della distribuzione assicurativa delicato e che ha necessità assoluta di essere liberalizzato. Noi fin dal primo giorno abbiamo dichiarato a questo governo la nostra disponibilità e il nostro interesse affinché la distribuzione assicurativa fosse liberalizzata. Ci siamo arrabbiati quando un provvedimento che è partito come vera liberalizzazione del settore è arrivato come finta liberalizzazione del settore. In questo pacchetto di norme di liberalizzazione delle assicurazioni c'è quasi nulla, perché non è liberalizzare un settore, ridurre l'incidenza delle frodi, sono delle norme condivisibili, ridurre l'incidenza delle frodi assolutamente ci trova tutti d'accordo, ma allora chiamiamo questo pacchetto per quello che è: un provvedimento antifrode, un provvedimento di sostegno all'industria assicurativa nazionale, che ne ha bisogno, ben vengano queste norme, ma chiamiamo queste norme per quello che sono, non sono norme di liberalizzazione scritte così e finalizzate a contenere dei fenomeni che non c'entrano con la liberalizzazione. Liberalizzare vuol dire eliminare delle barriere all'esercizio della libera concorrenza. Noi siamo per eliminare queste barriere, però sì, allora chiamiamo la norma per quello che è. De Mozzi, lei sicuramente mi ha fatto delle dichiarazioni di principio, tutte condivisibili, poi mi sono fatto una chiacchierata e gliel'ho anche raccontata a microfoni spenti qualche tempo fa con un vostro associato che me l'ha raccontata in maniera non diversa, molto più concreta, cioè che cosa rende difficile questa misura nell'operatività quotidiana degli assicuratori. Anche i plurimandatari che rappresentano più aziende magari devono fare e vogliono fare il triplo preventivo ad un assicurato che vuole cambiare compagnia piuttosto che vuole ricercare una condizione economicamente più vantaggiosa, lui deve fare un triplo preventivo anche per le aziende che non rappresenta, quindi fare un monitoraggio completo di tutte le offerte sul mercato, e chiaramente può capitare che l'offerta più vantaggiosa che gli arriva sia quella di un'altra società che lui non rappresenta, per cui deve dire addio al suo cliente, sempre che il cliente lo voglia, perché magari può anche mantenere questa relazione con lui, e mandarlo verso un'altra società che fa una condizione diversa. In soldoni posso dire che è così? Non è esattamente così, perché i plurimandatari, cioè l'obbligo delle tre offerte, che noi contestiamo perché fine a se stesso non è funzionale al motivo per cui è stata scritta la norma, ma l'obbligo delle tre offerte dice di tre compagnie non appartenenti allo stesso gruppo. Un plurimandatario che ne rappresentasse tre lo fa già il triplice preventivo, non deve andare a ricercare compagnie che non rappresenta, non è questa l'interpretazione. Se un plurimandatario rappresenta tre compagnie è a posto con la norma, il problema riguarda essenzialmente i monomandatari, certo, che dovrebbero andare a offrire, cioè ad indicare, a illustrare delle offerte di compagnie che non rappresentano, per cui non potrebbero intermediare i prodotti che, ecco perché noi chiediamo. E sono la grande parte, tra l'altro, no? Perché certo, la maggioranza degli intermediari, il 70% di tutti gli agenti. Certo. Allora, se il mercato non è pronto ad evolvere verso una pluralità di offerta, se però il governo intende rimanere fermo su questa richiesta, allora almeno che preveda gli strumenti agli agenti, sostanzialmente ai monomandatari, di poter trasformare questo onere di plurima informativa in occasione di redditività e di business, cioè che possano essere messi in grado di intermediare tutte e tre le offerte che vanno a Quindi sottoporre. Mandati da tutte le compagnie risolverebbe la questione o vi complicherebbe la vita? I mandati da tutte le compagnie oppure la libera collaborazione tra intermediari che permetta forme di collaborazione diversa che si possano concretizzare anche in qualcosa di diverso da un mandato esplicito. Assolutamente sì. Allora ci fermiamo. De Mozzi, congiuno, mi sono dimenticata di lei, ma abbiamo già raggiunto la prima pausa, così la faccio intervenire direttamente nella seconda parte di Salvadanaio, in modo che anche lei mi possa spiegare al meglio le ragioni delle vostre posizioni e soprattutto anche nel tentativo di ottemperare, anche se anche a voi non piace, nel meglio ai dettami della norma, come intendete fare, soprattutto anche in virtù del fatto che avete siglato questo accordo con i consumatori proprio ieri. eccoci ritrovati in diretta. Allora, stavo cercando di capire dalle anticipazioni che ho sul mio display quale sarebbe stato il contenuto della domanda del primo ascoltatore, appunto, che vuole intervenire, Tiziano da Carpi. Allora, Massimo Congiu, presidente di UNAPAS, mi sente? Sì, buongiorno. Prima di farla intervenire ci mettiamo insieme, direi, anche una considerazione, una sollecitazione da parte di un ascoltatore, così poi vengo alle sue posizioni e alle sue riflessioni su questo tema. Tiziano, buongiorno. Buongiorno. È un agente di assicurazione oppure un consumatore? Un consumatore. Allora, la situazione la perplime? Sì. Perché? Ma perché ho dovuto cambiare assicurazione perché erano prezzi troppo alti. E io capisco che c'è poca concorrenza. Sì, Tiziano, e quindi? Ah, quindi sì, venga la concorrenza. Il problema qual è? Se succede come quando uno chiede un finanziamento pubblico per delle opere che deve presentare due o tre preventivi, generalmente la ditta che presenta il primo preventivo si presta a presentare altri preventivi che, di altre aziende, che naturalmente li presenta più alti. C'è la stessa cosa anche con le assicurazioni, cioè se l'assicurazione che fa il preventivo, quella interessata, si mette d'accordo di presentare due preventivi di altre ditte, li tiene più alti. Allora, Tiziano, sentiamo un po' se queste sono anche le perplessità che hanno sentito Massimo Congiu e Claudio De Mozzi. Adesso riprendo con Massimo Congiu, il presidente di UNAPAS, appunto, anche così magari in queste ultime settimane in cui la discussione sul tema del triplo preventivo è stata sicuramente molto ampia. Allora, presidente Congiu, mi dica un po' intanto lei come la pensa, perché io, da quello che ho capito, poi magari ho capito male, io ci siamo conosciuti con lei anche l'altro giorno in occasione di un evento a Milano, la sua posizione mi sembrava un pochino più edulcorata rispetto a quella del sindacato. Non vi voglio mettere in contrapposizione perché non mi interessa, è capire se gli assicuratori possono fare qualcosa per poter ottemperare al meglio verso, diciamo, questa misura che tra l'altro è adesso è scritta in un determinato modo dal decreto Monti, ma l'ISVAP deve, entro 4 mesi, trovare una formulazione meno caotica di quella originaria che appunto prescriveva l'obbligo dei 3 preventivi. Secondo lei l'ISVAP cosa potrà fare? Voi che tipo di contributo darete anche per rendere questa norma un'opportunità per il mercato? Ma io credo che esista innanzitutto un'opportunità temporale. Abbiamo 4 mesi di tempo, dal 24 di marzo è sospeso questo obbligo in capo agli intermediari, quindi non arrabbiandoci ma con grande serenità possiamo aprire un tavolo di confronto con l'ISVAP. Ieri era presente ai lavori di un nostro convegno a Roma l'ISVAP direttamente, è ben lieta di ascoltare le voci degli intermediari, perché credo che l'errore che si è commesso un po' tutti è quello di confondere la finalità del decreto ridurre le tariffe RC auto con lo strumento di far cambiare mestiere ad un agente di assicurazione. Lo riteniamo profondamente sbagliato, potrebbe essere falsato dal fatto che esistono in Italia 54 compagnie che erogano servizi e prodotti RC auto. Per evitare quel dubbio che anche l'ascoltatore le ha evidenziato, senza criteri su come scegliere i 3 preventivi, le 3 compagnie, si potrebbe correre il rischio di non soddisfare quella che è la finalità del legislatore, ridurre le tariffe. Nel decreto legge esistono tantissimi strumenti che da subito consentirebbero alle famiglie italiane di poter ridurre il costo della RC auto, anche perché le compagnie hanno ottenuto in questo decreto strumenti oggettivamente validi per ridurre il costo dei sinistri. Quindi se più che concentrarci su un cambio di mestiere dell'agente di assicurazione, pluri o mono, lo deciderà il mercato, se premiare più un'offerta plurimandataria o monomandataria o avvalersi di un broker o di una figura nuova come si ipotizza quella dell'agente indipendente, concentriamoci su quelli che individuiamo essere nel decreto gli strumenti alla portata di tutti per ottenere sapere quello che vogliono i consumatori, tariffe più trasparenti e più basse rispetto alle attuali. E quali sono questi strumenti? Guarda, il primo strumento è quello che prevede l'installazione della scatola nera. Secondo noi questa l'installazione di una scatola nera, stando anche alle stime praticate attualmente dal mercato, prevede da subito un 20% di sconto della tariffa attuale. Significa che da domani, da oggi in poi, un consumatore può entrare in un'agenzia pluri o monomandataria e pretendere, perché le compagnie di assicurazione per legge hanno l'obbligo di offrire, anche di prevedere nei loro prodotti, l'installazione della scatola nera, e da subito avere uno sconto immediato. L'installazione costa qualcosa? Non mi sono mai interessata all'argomento. Il legislatore ha anche qui chiarito che non deve costare nulla al cliente, né nel momento dell'installazione, né durante l'uso, né quando va via per la disinstallazione. Quindi credo che questo sia uno strumento immediato, che il consumatore, entrando in un'agenzia monomandataria o plurimandataria o andando da un broker, può da subito pretendere, così come può mettere a disposizione il proprio veicolo per una verifica preventiva precontrattuale sullo stato del veicolo e ottenere anche lì un immediato sconto del premio. Tra l'altro adesso stiamo anche un po' cambiando argomento, però in realtà mi ha molto incuriosito, ma perché c'è così poca diffusione nelle auto italiane delle scatole nere? Presidente Congiu, perché si ha un po' di fatica ad essere sottoposti a questo grande fratello costante che ci monitorizza continuamente nelle nostre abitudini di trasferimenti e trasporto? Sì, c'è questa nostra italianità un po' che non ci premia, però in effetti oggi il grande fratello lo abbiamo in casa nel conto corrente bancario, quindi figuriamoci se possiamo metterci paura di mettere a disposizione dei dati sul nostro comportamento stradale, anche perché la diffusione della scatola nera, non solo come effetto immediato, sconto anche significativo, il praticato delle compagnie che già utilizza e propone ai clienti, si attesta ad uno sconto del 20% sulla garanzia RC Auto e del 50% sulle garanzie incendio e furto, ma consentirebbe di poter passare a tariffe molto più personalizzate, non sulle caratteristiche del veicolo, ma sui comportamenti di vita del conducente, proprio andando incontro ad un'altra esigenza, che è quella di tariffe più personalizzate che possano premiare molto di più il virtuosismo del comportamento. Va bene, adesso magari più avanti faremo una trasmissione esclusivamente su questo. Ritorniamo a questo triplo preventivo. Anche di questo ieri avete parlato, Presidente, in questo accordo che avete siglato con Adiconsum, che, se non ho capito male, vorrebbe proprio andare nella direzione della migliore applicazione per quanto possibile dei dettami delle misure sulle liberalizzazioni che vi riguardano direttamente. Che cosa avete stabilito e cosa farete? Noi innanzitutto da oggi siamo operativi ad applicare l'accordo con i consumatori. Vogliamo porci due obiettivi entro il prossimo anno: dimostrare che applicando la legge concorriamo a ridurre il costo dei sinistri e il costo dei premi della RC Auto. Il costo dei sinistri introducendo e combattendo da subito chi froda. Quindi ci mettiamo a disposizione insieme ai consumatori a denunciare tutti quei soggetti che frodano, utilizzano la polizza RC Auto come se fosse un bancomat. Noi da questo momento in poi li andremo a denunciare. Questo per far sì che il virtuosismo sia anche in Italia un elemento di vanto e non di qualcosa di cui non compiacersene. Quindi nella sostanza, mi faccia capire, il suo cliente dal quale lei percepisce che ci marcia un po', con una sinistrosità un po' alta, quindi con tutto quello che gli capita sia assolutamente casuale, lei prima lo abbandona e poi lo denuncia anche come? Nel momento in cui si apre vengono istruiti i sinistri, si accede direttamente ad una banca dati. La banca dati di gestione ISVAP segnala già casi in cui un testimone è ricorrente, l'agenzia contribuirà a fornire questo tipo di dato, sapendo che il contratto assicurativo è un da un punto di vista codicistico è un contratto pubblico, e quindi c'è un reato per falso in atto pubblico. Quindi il cliente è ben consapevole dei rischi che corre, avendo comportamenti non corretti e contro la legge. E insomma, Presidente Congi, io adesso devo fare di nuovo la prossima pausa. Prima che spaventarsi della questione del triplo preventivo, lei dice si può agire anche su altri versanti per comunque, come dire, mantenere su toni tranquilli il dibattito anche sul tema delle liberalizzazioni nel settore assicurativo, e quel tema lì lo si può comunque cogliere come opportunità per gli assicuratori. Sì, perché l'obiettivo del consumatore non è quello di vedersi cambiare la natura del proprio agente di assicurazione, spetta solamente unicamente al mercato, all'agente di assicurazione decide se essere mono o plurimandatario, anche perché non esiste alcun assunto scientifico in tutta Europa, in tutto il mondo, in base al quale l'agente monomandatario o plurimandatario premiano o penalizzano la concorrenza. Allora, non esiste nessun assunto. Ho una marea di messaggi, vorrei davvero leggerli tutti. Un ascoltatore ci dice: Roberto, il mio agente o monomandatario mi ha chiaramente detto che se gli chiedessi 3 preventivi me li presenterebbe tutti più elevati, in modo da chiaramente rimanere con lui. Un altro ascoltatore dice: la scatola nera è una porcata, ce l'ho avuta, vincola ad una serie di obblighi, quando serve non funziona, in caso di incidenti non chiama, e non vi dico, insomma, tanti altri messaggi di questo tipo. Sentirei Enrico dalla provincia di Cuneo, poi vado con un rapido giro di chiusura con De Mozzi e Congiu. Enrico, buongiorno all'800240024. Come la pensa? Buongiorno a lei. Guardi, io sono un intermediario assicurativo e sono plurimandatario, ho il mandato di 4 compagnie. Uh-huh. Allora, questa legge, questo decreto, a me piaceva tantissimo nella misura in cui spingesse verso il plurimandato degli intermediari, perché certo, comunque le compagnie assicurative mal tollerano gli agenti plurimandatari, perlomeno alcune grosse compagnie. La domanda mia è, se fossi monomandatario, è ovvio che interesse avrei a presentare, certo, preventivi più bassi rispetto all'unica mandante che io ho. Diciamo che da questo punto di vista tutti possiamo che riconoscere che la norma è malposta, e qua diciamo che non ci... Ecco, io ho più mandati quando il cliente viene da me, presento, ma anche in fase di rinnovo di una polizza, non soltanto in fase di acquisizione di nuovo cliente. Presento tre proposte, e poi sarà il cliente a scegliere quella che più aggrada, tenendo anche presente che il cliente vede addirittura le mie provvigioni, perché sul modello 7B che tutti gli intermediari devono consegnare c'è scritto chiaramente che la compagnia X dà una certa provvigione, quella, certo, Y dà un'altra. Quindi altro dubbio che nasce è quello che chiaramente l'intermediario favorisca l'agenzia, la compagnia che gli garantisce la provvigione più interessante. No? Però, perché, appunto, cioè, cosa che più mi preme capire è che senso abbia questo decreto, quando è ovvio che se uno è monomandatario non... Per ovvi motivi non cercherà mai compagnie più vantaggiose della sua. Enrico, la ringrazio. Allora andiamo a 2 dichiarazioni conclusive con Claudio De Mozzi e Massimo Congiu. De Mozzi, se vuole puntualizzare anche cose dette prima con il suo collega, le chiedo che cosa pensa della riflessione, mi pare anche ovvia, fatta da Enrico poco fa, e mi chiedo anche, me lo dica lei a questo punto, come l'ISVAP in questi 4 mesi di tempo che ha a disposizione potrà correggere questo articolo 34 con appunto il provvedimento che emanerà. Si tratterà di un regolamento, non so che cos'altro, peraltro, Congiu. Certo. Sì, De Mozzi. Allora, guarda, innanzitutto mi delude pensare che, allora, per non confondere lo scopo, che è la liberalizzazione, con il mezzo, che è la plurioferta o plurinformativa, si pensi di poter perseguire la liberalizzazione del settore denunciando i clienti che fanno i furbi. Non c'entra niente con la liberalizzazione denunciare chi fa il furbo, anche perché questo pacchetto di norme già prevede all'articolo 33 l'appesantimento delle pene. Beh, però De Mozzi, mi scusi, l'alta sinistrosità, l'attività fraudolenta ha portato nel sud Italia molte compagnie a non contrarre più le polizze con allora, i clienti, e questo ricade sui conti, certo, delle compagnie, certo, che a loro volta... Ragioniamo su come gli agenti possano contribuire a limitare il fenomeno della frode, ma allora parliamo di un pacchetto di misure antifrode. È importante, soprattutto nella comunicazione col grande pubblico, usare i termini corretti per quello di cui si sta parlando? Allora, parliamo di una collaborazione degli agenti con le compagnie finalizzato a ridimensionare il fenomeno fraudolento. Bene, ma cosa c'entra questo con la liberalizzazione? La liberalizzazione è rimuovere le barriere che impediscono di funzionare alle regole della libera concorrenza. Va bene, non voglio farvi litigare su quell'aspetto. Mi dica adesso l'ISVAP cosa... Spiegare. Anche perché, attenzione, anche l'informazione sulla scatola nera. Stiamo attenti a dire che comporterà automaticamente il 20% di sconto e che è obbligatorio, che il cliente la può imporre alla compagnia, può richiedere. L'ANIA, con una propria circolare del 27 marzo, ha scritto chiaramente alle compagnie: naturalmente resta ferma la natura facoltativa dell'offerta di polizze collegate a scatola nera. Quindi, siccome questa interpretazione è molto vicina al senso della norma, che è una norma liberista, stiamo attenti a creare delle facili illusioni. Quella riduzione matematica di prezzo e il potere al consumatore di chiedere, di pretendere dalla gente la polizza di scatola nera, non è... Benissimo, guarda, vi prometto che faccio una puntata solo su quella. Andiamo al triplo preventivo e l'ISVAP. Cosa deve fare l'ISVAP? Allora, l'ISVAP deve, dice la norma, stabilire le modalità, gli standard applicativi. Non è che possa fare molto altro. Quindi stabilire gli standard operativi per attuare l'articolo 34, il primo comma, cioè l'obbligo della preventiva. E non può neanche dire, immagino, alle compagnie di assicurazione: date tutti i mandati a pioggia a tutti coloro che ve lo chiedono. Ma certo che no, l'ISVA però può fare una cosa, raccogliendo l'ordine del giorno che è stato accettato dal governo in coda all'approvazione alla Camera del pacchetto liberalizzazioni, può prendere atto della volontà espressa dalla politica di aprire alla collaborazione consultiva tra intermediari, dando un'interpretazione favorevole estensiva di questa collaborazione consultiva, nel senso che la consultazione finalizzata alla vendita è vendita, e quindi sbloccare finalmente la libera collaborazione tra intermediari. Questo penso, spero lo possa fare. Allora, ci risentiamo tra 4 mesi, quando l'ISVAP avrà concluso questo lavoro. 30 secondi di tempo li concedo anche a Massimo Congiu, presidente di UNAPAS, se vuole puntualizzare alcuni aspetti. Non ho più di 30 secondi, presidente. La cosa che chiederemo all'ISVAP è quella di far due cose per le quali ha ricevuto la delega. La prima è chiarire come rendere applicabile la norma che non parla di preventivi, ma l'obbligo in capo agli intermediari di dare informazioni chiare e esaustive ai clienti. Il tema del cambio di mestiere che lei diceva prima, insomma, chiarirlo. L'altra cosa è che l'ISVAP, alla seconda delega, ogni semestre dovrà dire al governo, al ministero competente, se la norma è efficace o meno. Rispettarne soluzioni. In entrambi i casi, come associazione, l'11 incontreremo anche con lo SNA, l'11 aprile, per capire come concertare insieme, come proporre insieme allo SNA e a tutti i presidenti dei gruppi agenti che rappresentano la categoria. Benissimo. Solo che questa norma riusciremo a modificarla affinché gli operatori abbiano meno oneri e più vantaggi. Molto bene, buon lavoro. Intanto noi siamo arrivati puntuali all'appuntamento con le pillole curate in collaborazione con INPS e pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Il tema che stiamo affrontando in questi giorni è il passaggio per tutti al metodo contributivo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Che cosa cambia con l'applicazione del metodo di calcolo contributivo per i lavoratori più anziani e per quelli più giovani? Per i più giovani non cambia nulla. Sia per coloro i quali avevano meno di 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995, così come per coloro i quali hanno cominciato a lavorare dopo il 31 dicembre 1995. Per loro era già previsto che la pensione fosse calcolata con il contributivo per le anzianità maturate successivamente al 31 dicembre 1995. L'estensione a tutti del metodo contributivo dal 1 gennaio 2012 ha effetti solo sul calcolo delle prestazioni di coloro che avevano almeno 18 anni di contribuzione al 31 dicembre 1995. A essi spetterà una pensione calcolata secondo il criterio del pro rata, con applicazione del sistema retributivo alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 2011 e del sistema contributivo alle anzianità maturate successivamente. Intanto c'è il preventivatore dell'ISVAP, potete sicuramente cercare lì la migliore polizza per voi, quella economicamente più vantaggiosa, sicuramente quello è il monitoraggio più completo per il mercato. Poi andate dall'assicuratore, chiedete quella e vediamo come finisce tutta la storia. Grazie, a domani.